versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo giovedì 15 di ottobre, 16:31 primi 33 secondi, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, grazie per ascoltarci in diretta o in podcast e vi dico subito che oggi non vi chiedo di telefonare perché facciamo una trasmissione di servizio giornalistico sul tamburo per così dire, perché nella prima parte tentiamo di spiegarvi con un ospite, con un collega che era alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio conclusasi pochissimi minuti fa di prima presentazione della legge di stabilità per il 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri che si era riunito a cominciare dalle 13:30 e il Presidente del Consiglio ha illustrato con 25 slide di tweet la sintesi di questa legge di stabilità, ma allo stato attuale noi non abbiamo tabelle, numeri, testi, niente, quindi tenteremo di raccontarvi quello che abbiamo capito, naturalmente sperando che il governo nell'arco della giornata poi ci dia documenti cartacei. Il Presidente del Consiglio è dovuto partire subito dopo, finita la conferenza stampa di illustrazione generale, perché c'è un vertice europeo a Bruxelles e questo nella prima parte. Poi nella seconda parte invece un altro flash su un'altra novità molto importante di giornata, perché dopo il congelamento, lo scontro, sembrava uno scontro epocale tra Confindustria e sindacati con il blocco dei contratti per il mancato accordo sul rinnovo del modello contrattuale, invece stamattina in poche ore i chimici hanno firmato, i sindacati con Federchimica e Farmindustria, quindi un contratto che riguarda 170.000 lavoratori, quindi il freezing non c'è evidentemente. E ci faremo spiegare come questo contratto si firma, se questo vuol dire che anche per gli altri e anche per i metalmeccanici, che scade tra poco, riguarda 1.600.000 dipendenti, sia possibile evitare quindi lo scontro, la moratoria per così dire. Ma cominciamo con la legge di stabilità, per quanto sia stato possibile capirne dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Ripeto, per il momento non abbiamo ancora documenti, carte, numeri, ed è collegato con noi, di questo lo ringrazio, Alessandro Barbera della Stampa, che appunto era la conferenza stampa. Buon pomeriggio, grazie Alessandro. Buongiorno Oscar. Allora, io dico, cominciamo punto per punto, per così dire, cominciamo con l'equilibrio generale. Il Presidente del Consiglio, mi pare di avere capito, ha confermato di considerare acquisiti gli spazi di flessibilità per quello che riguarda l'Europa sulla clausola degli investimenti e la clausola delle riforme e insieme al Ministro Padoan ha detto siamo anche in attesa di capire se possiamo alzare il deficit rispetto al 2,4, che è quello che ci avevano annunciato nella nota di aggiornamento del DEF, portarlo al 2,6% del PIL su questa clausola di un altro 0,2, perché la Commissione europea ci deve dire l'interpretazione che dà se si può fare uno 0,2 ancora ulteriore in più per i profughi e i migranti. È così? 2,2,2,4. Sì, 2,2,2,4, hai ragione. 2,2 la cifra inserita nel DEF, lo 0,2 ulteriore è quello, il documento economia e finanza, ecco, non tutti capiscono la sigla DEF, giustamente, è un ulteriore 0,2, è quello che è un 0,2% di prodotto, sostanzialmente circa 3 miliardi di euro, è quanto il governo chiede di flessibilità aggiuntiva ai 13 miliardi che ha effettivamente ottenuto, diciamo ottemperanza alla cosiddetta clausola per gli eventi eccezionali che il governo ha individuato nella vicenda dei migranti. Il governo, un po' curiosamente per la verità, chiede di utilizzare questo spazio di flessibilità che servirebbe a finanziare le spese per la gestione dell'emergenza migranti per eventualmente anticipare al 2016 il taglio dell'IRAP. Quindi, per dire una battuta, Renzi spera che ci diano un po' di soldi per i migranti, così lui può finanziare abbassare l'IRES. La verità è che Oscar, per andare sul concreto, la sensazione da Bruxelles è che sia improbabile, sì, che Bruxelles conceda questo spazio di flessibilità. Naturalmente, secondo me, c'è un elemento politico da sottolineare, cioè Renzi sta dicendo all'opinione pubblica: io avrei voluto avere ancora un po' più di spazio per cominciare a finanziare da quest'anno una riduzione dell'IRES alle imprese, l'Europa non mi dà questo spazio, sì, ulteriore, e quindi l'IRES comincerà la riduzione dell'IRES, è rinviata al 2017. Secondo punto, sui tagli di spesa mi pare di aver capito che le anticipazioni che avevamo dato tutti sul fatto che erano in ulteriore diminuzione mi pare che sia confermato, perché io ho sentito, magari ho sbagliato, ma il Presidente del Consiglio, che a domanda precisa, dice che i tagli di spesa sono in tutto 5 miliardi, è così? È così, ha detto 5 miliardi, cioè la metà di quanto era stato preventivato ancora a luglio nel documento di economia e finanza prima della nota di aggiornamento di ottobre. E questi 5 miliardi verrebbero da 2 miliardi di mancato aumento del fondo sanitario, che doveva aumentare di 3 miliardi, invece aumenterà solo di un miliardo rispetto a quest'anno, l'anno prossimo a 111 miliardi, quindi 2 miliardi si risparmiano da mancati aumenti al fondo sanitario, e il resto, mi pare di aver capito, per metà dai ministeri con tagli semilineari e poi per metà dagli acquisti, così? Esattamente, questa è la... E sono stati, Renzi ha detto molto esplicitamente, commentando anche le voci che vogliono Roberto Perotti, uno dei due commissari della spending review dimissionari, ha detto che è stato deciso esplicitamente di non tagliare in nessun modo le cosiddette agevolazioni fiscali, che avrebbero dovuto ammontare a 4 miliardi, perché, dice Renzi, poi i giornali avrebbero scritto che aumentava la pressione fiscale. Naturalmente qui la domanda che andrebbe fatta Renzi immediatamente è: ma se pensava questo, poteva pensarlo dall'inizio, perché non è che esatto. Questo pensierino non credo l'abbia fatto 6 o 7 mesi fa, immagino che sia una cosa della quale era ben consapevole sin dall'inizio. Allora, poi c'è una raffica di annunci, vedremo le cifre confermate, però insomma una bella raffica di annunci, confermato il taglio IMU, TASI, prima casa, IMU agricola e imbullonati, con esplicita promessa che ai comuni verrà totalmente coperto il venir meno del gettito senza aumento della tassazione della seconda casa. E ha confermato il Presidente del Consiglio che questo è un effetto psicologico che si vuole creare sulla gente per evitare che continui a risparmiare timore di nuove tasse il maggior reddito disponibile, a maggior ragione con la crescita. Ha continuato a dire che gli italiani risparmiano per paura, ha rifatto la cifra. Dopodiché, secondo annuncio, la decontribuzione per i nuovi assunti, che quest'anno è stata riservata a qualunque contratto fino a 8.060 euro, mi pare di aver capito che l'anno prossimo si riduce durando 2 anni a quel punto, per poi esaurirsi il terzo anno, ma l'anno prossimo si ridurrebbe del 40%, quindi se faccio bene i conti gli 8.060 euro diventerebbero 3.300 euro, hai capito così anche tu? Io ho capito sia al 40% di 8.000, esattamente sì. Quindi le imprese continueranno ad averla, ma finisce poi alla fine del 2017 diminuendo da questo punto di vista. Dopodiché ho capito ancora che c'è la conferma, ma non ho capito la cifra, di un forte potenziamento degli incentivi fiscali agli investimenti delle imprese, cioè il famoso regime del superammortamento del 140%, che non significa, come è stato spiegato fino a questo momento, che se le imprese investono 100 in beni strumentali ottengono il credito fiscale di 140, significa che sono ammessi alla aliquota di ammortamento non per il 100% che spendono, ma per il 140%. Naturalmente l'aliquota di ammortamento non è l'integrale rifusione, però io non ho capito la cifra. Tu hai capito il pacchetto di incentivi alle imprese a quanto ammonta? No, non l'ho citato, però è chiaro che loro ipotizzano il cosiddetto superammortamento, che è diciamo una precisazione delle spese di ammortamento. Gli stanziamenti per abolire l'IMU sui macchinari imbullonati e l'IMU agricola come un unico pacchetto. Poi Renzi ha detto, e qui entriamo veramente nella terra di nessuno, Renzi ha detto che ci potrebbe essere nei prossimi giorni un decreto o un altro provvedimento di legge, un collegato alla legge di stabilità, che riguarderebbe le imprese. Infatti, a dimostrazione di questo, a conferma di questo, Renzi ha anche detto che sarebbe sua intenzione far entrare in vigore la norma sul superammortamento già da oggi. Quindi sarebbero confermate le anticipazioni che dicevano che riguarderebbe già l'incentivo agli investimenti fatti dalle imprese nell'ultimo trimestre del 2015, che era la cosa che era uscita dal MEF. È probabile che queste cose vengano, che tutta questa materia venga inserita in questo decreto / collegato, che evidentemente avrebbe, immagino, effetto retroattivo. Stiamo andando sulle ipotesi. Perché tutto dipende dalle coperture, perché questo significa che ci devono essere anche per l'anno in corso. Poi, continuiamo in maniera spot, sulle pensioni, dopo un mese di annunci, tira e molla tra Padoan, che diceva no a spese in deficit per il prepensionamento, pezzi del PD del sindacato che invece le chiedevano, e Renzi a metà, far capire che dipendesse da lui, bisognava fare qualcosa. Mi pare di aver capito che c'è una conferma del part-time agevolato e una conferma delle finestre per la cosiddetta opzione donna, cioè per quella opzione donna che andava rifinanziata. Non ho capito però quando il Presidente del Consiglio, confermando questa disponibilità, ha detto che però si fa con aggravio zero. Tu hai capito qualcosa? Questo mi pare difficile che possa avvenire, però è possibile che quando parla di aggravio zero si riferisca al fatto che il Tesoro, come aveva annunciato, mette a disposizione i fondi che erano stati accantonati dal Tesoro quest'anno e che erano fondi che non erano stati spesi per la sesta clausola di salvaguardia per sì. l'opzione donna di quest'anno. Questo per spiegare, per spiegare a chi ci ascolta: il Parlamento in questi anni dopo la legge Fornera ha fatto sei misure di salvataggio esodati, in teoria a copertura fino a 170.000 esodati. I rapporti in realtà accesi sono stati 121.000, quindi sono avanzati di quei 12 miliardi 3 miliardi e quindi ci sarebbe, che il Tesoro si era ripreso, quindi si pescherebbe di lì. La misura del part-time agevolato riguarderebbe dipendenti che hanno più di 63 anni del settore privato, in questo caso con, tramite accordi individuali tra quei dipendenti che fossero interessati ad andare in pensione prima e l'azienda, che però l'azienda deve essere d'accordo. Non ci sarebbe penalizzazione per chi lo sceglie, perché il datore di lavoro a quel punto dovrebbe versare in busta paga l'intera contribuzione netta che avrebbe destinato all'INPS in caso di orario pieno, mentre la contribuzione figurativa sarà a carico della fiscalità generale. Quindi vedete che c'è bisogno quindi di una copertura. Quindi ci dice Alessandro Barbera: i soldi li prendiamo da quelli avanzati dalle coperture degli esodati, però ripeto, senza testi difficile dirlo. Poi c'è la conferma del canone RAI in bolletta, con un decalage della cifra, sarebbe 100 euro quest'anno e nel secondo anno, a quanto ha detto, che scendeva, 95, no? 95. Non ho capito se è confermato che è in bolletta elettrica. È confermato in bolletta elettrica con versamento unico? Perché io questo non l'ho sentito. Ma dobbiamo dedurre di sì, ecco, insomma, che evidentemente i problemi tecnici con l'ENI sono superabili. Vi abbiamo già spiegato, cari ascoltatori, che la norma si presta a impugnative da parte di tutti i gestori. Ci saranno problemi per chi ha seconda e terza case, per chi è esercente pubblico, eccetera eccetera, però il governo va avanti su questa strada. Confermato anche l'innalzamento del tetto per il contante da 1.000 a 3.000 euro. Il Presidente del Consiglio su questo è stato chiaro, ha risposto a parecchie domande, ha detto che nel frattempo il governo ha sottoscritto molti accordi internazionali di cooperazione all'evasione fiscale. Ha compiuto l'iter ed è in attuazione la piena legge per l'introduzione dell'autoriciclaggio nel nostro ordinamento. Insomma, ha detto Renzi, c'è il pieno controllo sui dati bancari dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo potenziato così tanto la lotta all'evasione che chi dice che il tetto alzato oggi significa fare una marcia indietro verso la destra populista e così via, ignora che noi abbiamo potenziato la lotta all'evasione. Questo l'ha detto chiaro. Confermato però Alessandro che l'azzeramento delle clausole di salvaguardia, che erano di 16 miliardi e mezzo previste per l'anno prossimo, si ferma lì. Non sono azzerate anche le clausole di salvaguardia poi degli anni successivi, che comunque riguardano la programmazione pubblica connessa alla finanziaria della contabilità, vero? No, questo no. Ripartiamo da zero l'anno prossimo, ma è evidente ed è immaginabile che, diciamo, il percorso che si è aperto in Europa sia sostanzialmente tale da immaginare che il governo nei prossimi anni faccia quello che sta facendo, sostanzialmente chiede all'Europa, perché questo è quello che è avvenuto quest'anno, pur se ci sono ancora 3 miliardi che ballano, di fatto ne abbiamo chiesto di poter finanziare in deficit quelle che erano le clausole di salvaguardia introdotte quando, diciamo, le regole e il mood in Europa era diverso. Quindi si può immaginare e pensare che il governo pensi nei prossimi anni di fare la stessa cosa. Dopodiché una raffica ancora di tweet. Renzi ha annunciato fondo antipovertà da 600 milioni concentrato soprattutto su incapienti, che non ha preso gli 80 euro, e a sostegno dei minori. Dopodiché ha annunciato 1.000 ricercatori, 500 cattedre speciali, 500 assunzioni nella cultura. Ha annunciato 450 milioni per la terra dei fuochi e un fondo di garanzia per l'ILVA, dicendo risposte per il sud, non proclami. Ha annunciato 100 milioni di disabili. Non ho capito se ha quantificato qualche cosa, ma ha citato a un certo punto più servizio civile, quindi non ho capito che cosa voglia dire francamente, né io ho capito il dettaglio della della misura antipovertà, oltre che i 600 milioni. Tu hai capito di più? Pare che ci sia sostanzialmente, si ritira fuori dal cassetto, dopo i tagli lineari ritiriamo fuori la tanto bistrattata social card. Ah, di Tremonti. Il governo Tremonti. C'era qualcuno che ritweetava i tweet di Renzi dicendo il vero capo oramai di Forza Italia. Vabbè, ma queste sono cose dei social, no, no, no, non lo penso minimamente. Più o meno io mi fermerei qua. Diciamo che è una, dal mio giudizio, però mi interessa il tuo, una legge di stabilità molto in deficit, e va bene, molto molto per le imprese, perché è vero che c'è un decalage della contribuzione che però resta più sostanziosa di quello che mi aspettassi. In più c'è uno Jobs Act annunciato per i lavori autonomi, è solo un titolo, vedremo di che si tratta. E un nuovo intervento sulle partite IVA al MIMO per correggere il diabolico errore del governo dell'anno scorso, ma insomma le imprese ne escono abbastanza bene. Dopodiché, tra i mutasi e interventi su a pioggia, povertà, sud, eccetera eccetera, una manovra che altre grandi scelte non ne fa, però insomma dispensa molti fondi a pioggia. Io la chiamerei una manovra preelettorale, tu che dici? Ma diciamo preelettorale è forse troppo, diciamo, però certo è una manovra che distribuisce tanto. Se gli si può fare una critica, diciamo, posto che chi governa ha il diritto di cercare consenso, pieno. Se si vuole si può fare da subito un'obiezione di merito sostanziale alla manovra, è che la manovra è molto in deficit, come dici tu, e non è supportata da una riduzione di spesa importante come invece ci si aspettava. Questo significa che se l'aria dei tassi dovesse cambiare, se davvero in America la Fed dovesse decidere di cambiare la sua politica dei tassi e ci dovesse essere un aumento dei tassi di interesse, beh, a quel punto il governo si può dire che sta facendo una scommessa molto rischiosa, perché potrebbe accadergli quello che accade al governo Berlusconi, cioè che taglia le tasse e poi si ritrova a doverle rialzare perché nel frattempo non ha ridotto la spesa di quanto avrebbe dovuto. E annuncio che la grande prima promessa con cui ha esordito il Presidente del Consiglio, che malgrado l'aumento del deficit il debito pubblico scende, è appesa una proiezione di inflazione più 1% l'anno prossimo, che per il momento è contraddetta dal fatto che l'inflazione in Italia continua a scendere. L'Istat ieri ha corretto a meno 0,4% l'inflazione a settembre. Vedremo, questo è quello che abbiamo capito per il momento. Io ringrazio Alessandro Barbera e ci sentiamo tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:50 primi 29 secondi. Un tweet mi ha fatto molto sorridere di voi ascoltatori, che dice: adesso aspetto che Renzi annunci la fine anticipata del campionato, così ha vinto la Fiorentina, poi le avremo sentite tutte. Noi abbiamo tentato di riassumervi quello che abbiamo capito, non abbiamo documenti, non abbiamo numeri, è chiaro che le leggi di stabilità si possono analizzare solo una volta che uno vede che cosa c'è scritto sopra. Per esempio molti di voi chiedono cosa c'è per tagliare artigiani al minimo. A oggi c'è un titolo, non lo sappiamo. Domani mattina io vi do già appuntamento, però, perché sarà ospite di Attenti a Noi Due con Alessandro Milan e me domani mattina dalle 8:15 alle 9 il sottosegretario Enrico Zanetti, è lui che ha contribuito a scrivere questo nuovo intervento correttivo per gli autonomi al minimo e partita IVA. Vedremo di che si tratta. Nel frattempo stamattina, sorpresa, dopo che la settimana scorsa i giornali avevano annunciato con intervento del presidente di Confindustria dicendo che con i sindacati non ci intendiamo proprio, non vogliono mettere mano alla riforma del modello contrattuale, e quindi tutti avevano scritto: ma allora i contratti in scadenza, quelli già scaduti, i chimici, i dipendenti della trasformazione agroalimentare, e poi scade il contratto dei metalmeccanici a dicembre, sono più di 2 milioni di italiani e una trentina di contratti che vanno in scadenza, che succede? Ci si ferma tutti, perché col vecchio meccanismo di recupero dell'inflazione, diceva Confindustria, si è pagato troppo rispetto all'inflazione reale, e poi bisogna mettersi d'accordo sul salario di produttività. Sorpresa, stamattina i chimici, i sindacati dei chimici e Confindustria, quindi Federchimica e Farmindustria, in realtà il contratto lo hanno chiuso senza nessun problema. È una tradizione dei chimici, dove esiste una forte capacità di intendersi tra sindacati e imprese nella storia, questo va detto, a differenza di quanto capita nel settore dei meccanici. E l'aumento complessivo per il triennio 2016-2018 dei 171.000 dipendenti, in oltre 3.000 imprese del settore, insomma, sulla carta è 100 euro. Allora, abbiamo con noi, per capire meglio, Emilio Miceli, che è il segretario generale dei chimici della CGIL. Buon pomeriggio. Salve. Allora, ci può dire, sbagliavano i giornalisti a capire che c'era il rischio di non andare avanti, oppure è la vostra categoria che vive da sempre una capacità di cooperazione? Di che si tratta? Ci dia i dettagli dal vostro punto di vista più significativi di questo accordo. I dettagli sono presto detti. Abbiamo fatto un accordo secondo il quale 90 euro di aumento nei prossimi 3 anni saranno sui minimi contrattuali, cioè copriranno per il 4% l'inflazione, che è quella programmata per i prossimi 3 anni. Abbiamo immaginato una... Aspetti, qui le chiedo, quindi non si recupera quello che le imprese contestavano di pagamenti eccessivi rispetto all'inflazione reale nella vigenza del contratto precedente? Stavo proprio dicendo questo. Ah, mi scusi. La seconda cosa che abbiamo fatto, avendo deciso sui minimi, cioè avendo messo un punto fermo su una discussione che sembrava a tratti essere una discussione molto difficile per quanto ci riguarda, abbiamo deciso anche di risolvere il tema degli scostamenti inflattivi, che noi abbiamo sempre riconosciuto come tale nel contratto dei chimici, e lo abbiamo fatto con il nostro modo di ragionare. Non abbiamo invaso un nuovo contratto, non abbiamo invaso soprattutto i minimi contrattuali, la difesa del potere d'acquisto. Abbiamo immaginato che l'ultima tranche del vecchio contratto, che è una tranche di 15 euro, potesse essere usata come una sorta di traghetto lungo tutto il 2016 e potesse cessare di vivere quando al 1 gennaio del 2017 sarebbe entrata e entrerà in vigore la nuova tranche di 40 euro del nuovo contratto. Abbiamo immaginato anche che l'anno 2016 sia un anno di moratoria sostanziale, per cui allora, come lei avrà visto, è da gennaio 2017 che Io devo dire a chi ascolta che non solo, come vedete, c'è la maniera di intendersi anche sul punto delle retribuzioni rispetto all'inflazione, ma poi nell'accordo su molti punti, il welfare contrattuale, la relazione industriale, la contrattazione di secondo livello, formazione, ambiente, salute e sicurezza, il contratto dei chimici resta la prova che in Italia si può raggiungere accordi su cose fondamentali intendendosi da punti di vista diversa, mettendo insieme però gli interessi dei lavoratori e quelli delle imprese. Grazie al segretario dei chimici della CGIL. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con Alessandro Milan. In attenti a noi due.